Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Il Conte di Morcerf misurava a gran passi, per la terza volta, la lunghezza della sala quando, voltandosi, vide Montecristo in piedi sulla soglia. «Ah, è il signor di Morcerf», disse tranquillamente Montecristo. «Credevo di aver capito male». «Sì, sono io», disse Morcerf con una spaventosa contrazione delle labbra che gli impediva di articolare bene le parole. «Dunque non mi resta che capire ora», disse Montecristo, «il motivo che mi procura il piacere di vedere il signor di Morcerf così di buon'ora». «Sono venuto», ribatté il generale, «per dirvi che vi considero mio nemico. Sono venuto per dirvi che vi odio per istinto, che mi sembra di avervi sempre conosciuto, sempre odiato, e infine che dal momento che i giovani di oggi non si battono più, tocca a noi batterci. Siete anche voi di questo parere, signore?» «Esattamente». «Tanto meglio. I vostri preparativi sono fatti?» «Lo sono sempre, signore». «Voi sapete che ci batteremo fino alla morte di uno di noi due?» disse il generale con i denti stretti per la rabbia. «Fino alla morte di uno di noi due», ripeté il conte di Montecristo facendo un leggero cenno di consenso. «Si cominci allora. Noi non abbiamo bisogno di padrini». «E infatti», disse Montecristo, «è inutile. Ci conosciamo troppo bene». «Al contrario», disse il conte, «noi non ci conosciamo affatto». «Vediamo un po'», disse Montecristo con la stessa flemma esasperante. «Non siete voi il soldato Fernand che ha disertato la vigilia della battaglia di Waterloo? Non siete voi il tenente Fernand che servì da guida e da spia all'armata francese in Spagna? Non siete voi il capitano Fernand che ha tradito, venduto, assassinato il suo benefattore Ali? E tutti questi Fernand riuniti non hanno formato il tenente generale Conte di Morcerf, pari di Francia?» «Ah, miserabile!» gridò il generale, colpito da quelle parole come fossero ferro rovente. «Mi rimproveri la vergogna nel momento in cui forse stai per uccidermi. No, non ti ho detto di esserti sconosciuto. So bene, demonio, che penetrasti nella notte del passato e che vi leggesti al chiarore di non so quale fiaccola tutte le pagine della mia vita. Ma forse, forse c'è più onore in me, nel mio obbrobrio, che in te sotto la tua pomposità. No, io ti sono noto, lo so. Ma io non conosco te, avventuriero coperto d'oro e di pietre preziose. Tu ti sei fatto chiamare a Parigi Conte di Montecristo, in Italia Simbad il marinaio, a Malta che so io, l'ho dimenticato. Ma è il tuo vero nome che ti domando. È il tuo vero nome che voglio conoscere fra i tuoi 100 nomi, affinché lo pronunci sul luogo del duello nell'istante in cui ti affonderò la mia spada nel cuore». Il Conte di Montecristo impallidì terribilmente. Il suo sguardo si accese di un fuoco divorante. Fece un balzo nello spogliatoio attiguo alla sua camera e in meno di un secondo si strappò la cravatta, l'abito, il gilet, indossò una piccola giacca da marinaio, si mise un berretto da uomo di mare sotto il quale sciolse i suoi lunghi capelli neri. Ritornò così, spaventevole, implacabile, camminando con le braccia conserte incontro al generale che, stupito da quella comparsa, sentendo i propri denti battere e le gambe piegarglisi, indietreggiò di un passo e si fermò soltanto quando trovò in una tavola un punto d'appoggio per la sua mano rattrappita. «Fernand», gridò il conte, «dei miei 100 nomi non avrei bisogno di dirtene che uno solo per fulminarti. Ma questo nome tu lo indovini, non è vero? O piuttosto, te lo ricordi? Poiché, malgrado tutti i miei dolori, tutte le mie torture, oggi ti mostro un viso ringiovanito dalla felicità della vendetta. Un viso che devi aver visto molte volte nei tuoi sogni dopo il tuo matrimonio con Mercedes, mia fidanzata». Fernand Morcerf, con la testa rovesciata indietro, le mani tese, lo sguardo fisso, divorava in silenzio quella terribile scena. Subito dopo, appoggiandosi alla parete, strisciò lentamente fino alla porta, da cui uscì a ritroso, lasciandosi sfuggire un solo grido, lugubre, lamentevole, dilaniante. «Edmond Dantès!» con sospiri che non avevano niente di umano. Morcerf si trascinò fino al peristilio della casa, attraversò il cortile come ubriaco e cadde fra le braccia del suo domestico mormorando soltanto con voce inintellegibile: «A casa, a casa!» Strada facendo, la freschezza dell'aria e la vergogna che gli causava il vedersi oggetto dell'attenzione dei servi lo rimisero in grado di raccogliere le sue idee. Ma il tragitto fu corto e via via che si avvicinava alla sua abitazione il conte sentiva rinnovarsi tutte le sue sofferenze. A qualche passo dalla casa fece fermare e discese. La porta del palazzo era spalancata. Una carrozza da nolo, come stupita di essere stata chiamata in quella magnifica dimora, stava in mezzo al cortile. Il conte guardò la carrozza con terrore, ma senza avere il coraggio di interrogare nessuno, corse verso il suo appartamento. Due persone scendevano dalla scala. Non ebbe che il tempo di nascondersi in un salottino per evitarle. Era Mercedes, appoggiata al braccio di suo figlio. Abbandonavano entrambi il palazzo. Passarono a pochi passi dal disgraziato che, nascosto dietro la tenda di damasco, fu sfiorato dalla veste di seta di Mercedes e sentì sul suo viso il tiepido soffio di queste parole pronunciate dal figlio. «Coraggio, madre mia! Venite! Venite! Noi qui non siamo più in casa nostra!» Le parole si spensero. I passi si allontanarono. Il generale si drizzò, tenendosi con le mani rattrappite ai pannelli di damasco. Comprimeva il più orribile singhiozzo che fosse mai uscito dal petto di un padre, abbandonato nello stesso tempo dalla moglie e dal figlio. Ben presto udì sbattere lo sportello di ferro della carrozza, poi la voce del cocchiere. Quindi il pesante veicolo fece tremare i vetri. Allora corse nella sua camera da letto per vedere ancora una volta tutto ciò che aveva amato al mondo, ma la carrozza partì senza che la testa di Mercedes o quella di Albert si sporgessero dallo sportello per dare alla casa solitaria, al padre e allo sposo abbandonato, l'ultimo sguardo di addio. Così, nel momento stesso in cui le ruote della carrozza scuotevano il pavimento sotto la volta, si sentì un colpo d'arma da fuoco e una nuvola scura uscì da uno dei vetri della camera da letto, infranto dall'esplosione. È facile immaginare dove e con chi Morrel avesse un appuntamento. Lasciato Montecristo, si incamminò verso la casa di Villefort. Noirtier e Valentin gli avevano accordato due visite la settimana ed egli veniva a godere dei suoi diritti. Arrivò che Valentin lo attendeva, inquieta e quasi smarrita, lo prese per mano e lo condusse dal nonno. «Ora», disse Valentin facendo segno a Morrel di sedersi accanto al vecchio e sedendosi lei stessa sullo sgabello dove riposavano i suoi piedi. «Ora, parliamo un po' delle nostre cose. Voi sapete, Maximilien, che il mio buon nonno aveva avuto per un momento l'idea di abbandonare la casa e di prendere un appartamento fuori del palazzo del signor di Villefort?» «Sì, certo», disse Maximilien. «Mi ricordo di questo progetto e lo avevo anche decisamente approvato. Ebbene», disse Valentin, «approvatelo ancora, Maximilien, perché il buon nonno lo rinnova.» «Bravo», disse Maximilien. «E sapete per quale ragione il nonno vuole lasciare la casa?» Noirtier guardava la ragazza per imporle il silenzio con gli occhi. Ma Valentin non guardava Noirtier. I suoi occhi il suo sguardo, il suo sorriso, erano tutti per Morrel. «Oh, qualunque sia la ragione che addurrà il signor Noirtier», gridò Morrel, «dichiaro che è buona». «Il nonno», disse Valentin, «pretende che l'aria del Faubourg Saint-Honoré non sia vantaggiosa per la mia salute». «Il signor Noirtier potrebbe realmente avere ragione», disse Morrel. «Da 15 giorni trovo il vostro aspetto un po' alterato». «Sì, un po' è vero», disse Valentin. «Il nonno è diventato il mio medico e siccome egli sa tutto, ho grande fiducia in lui». «Ma è dunque vero che soffrite, Valentin?» domandò premurosamente Morrel. «Oh mio Dio, ciò non si può definire sofferenza, ma sento un malessere generale, ecco tutto. Ho perduto l'appetito e mi pare che il mio stomaco stia lottando contro qualcosa». Noirtier non perdeva una parola di Valentin. «E che cura seguite per questo malessere sconosciuto?» «Oh, semplicissima», disse Valentin. «Prendo tutte le mattine un cucchiaio delle medicine che porto a mio nonno. E dicendo un cucchiaio intendo che ho incominciato con il prenderne uno, ma ora ne prendo già 4. Il nonno pretende che questa sia una panacea». Valentin sorrideva, ma c'era qualche cosa di triste e sofferente in quel sorriso. Maximilien, ebbro d'amore, la guardava in silenzio. Era bella, ma il suo pallore aveva assunto un tono ancora più chiaro. I suoi occhi brillavano di un fuoco più intenso del solito. E le sue mani, abitualmente di un bianco perlaceo, sembravano di cera un po' ingiallita dal tempo. Da Valentin, il giovane volse gli occhi a Noirtier. Questi osservava con quella strana e profonda intelligenza la ragazza assorta nel suo amore. Lui pure, come Morrel, scorgeva quelle tracce di una sorda sofferenza sfuggite agli occhi di tutti, tranne che ai suoi e a quelli del suo fidanzato. «Ma», disse Morrel, «quella pozione di cui siete giunta a prenderne 4 cucchiai, credevo fosse una medicina per il signor Noirtier». «So che è molto amara», disse Valentin, «tanto amara che tutto ciò che bevo dopo mi sembra avere lo stesso gusto». Noirtier guardò la nipote con aria interrogativa. «Sì, nonno, proprio così. Poco fa, prima di venire da voi, ho bevuto un bicchiere d'acqua zuccherata. Ebbene, ne ho lasciata la metà, tanto mi è parsa amara». Noirtier la seguiva con gli occhi e con visibile angoscia. Difatti il sangue saliva alla testa della ragazza e le sue guance si colorivano. «Toh, è strano», disse senza perdere la sua allegria. «Un capogiro? È dunque il sole che mi ha colpito gli occhi?» E si appoggiò alla maniglia della finestra. «Non c'è il sole», disse Morrel, inquieto più per l'espressione del viso di Noirtier che per l'indisposizione di Valentin, e corse presso di lei. La ragazza sorrise. «Rassicuratevi, nonno», disse a Noirtier. «Rassicuratevi, Maximilien, non è niente. La cosa è già passata». «Ma ascoltate, non è il rumore di una carrozza quello che sento in cortile?» Aprì la porta, corse a una finestra del corridoio e tornò precipitosamente. «Sì», disse, «è la signora Danglars con sua figlia che vengono a farci visita. Addio, fuggo, perché verrebbero a cercarmi qui, o piuttosto, arrivederci. Restate con il nonno, signor Maximilien. Vi prometto di non far nulla per trattenerle». Thank you. Le due signore entrarono nel salotto con la solennità di chi sta per fare un'importante comunicazione. E siccome fra persone dello stesso ceto la minima sfumatura è subito avvertita, la signora di Villefort rispose con la stessa solennità. Entrò in quel momento Valentin e le riverenze ricominciarono. «Cara amica», disse la baronessa mentre le due ragazze si prendevano per mano, «vengo con Eugénie ad annunciare a voi per prima il prossimo matrimonio di mia figlia con il principe Cavalcanti». «Allora permettete che vi faccia le mie congratulazioni», disse la signora di Villefort. «Il principe Cavalcanti sembra un giovane di rare qualità». «Sentite», disse la baronessa sorridendo, «per parlare da amica, devo dirvi che il principe non fa presagire ancora ciò che potrà diventare. Ha in sé un poco di quella originalità che a noi francesi fa riconoscere al primo sguardo un gentiluomo italiano o tedesco, però sembra avere buon cuore, molta finezza di spirito e, quanto a ricchezza, beh, il signor Danglars sostiene che la sua sostanza sia più che ragguardevole. Questo è il suo motto». «E poi», disse Eugénie sfogliando un album della signora di Villefort, «aggiungete, signora, che avete una simpatia particolare per questo giovane?» «E», disse la signora di Villefort, «non ho bisogno di domandarvi se condividete questa simpatia». «Io?» rispose Eugénie con la sua solita serietà. «Oh, niente affatto, signora. La mia vocazione non è di dedicarmi alle cure di una famiglia o ai capricci di un uomo, quale che sia. La mia vocazione è di essere un artista e perciò di essere padrona del mio cuore, della mia persona e dei miei pensieri». Valentin, sospinta da una parola nei suoi ricordi, era già con il pensiero nella camera di Noirtier, dove Morrel l'aspettava. Assorta in quella specie di contemplazione interiore, si era estraniata per qualche istante dalla conversazione. Le sarebbe stato perfino impossibile ripetere ciò che aveva detto pochi minuti prima, quando ad un tratto la mano della signora Danglars, appoggiandosi sopra il suo braccio, la riportò alla realtà. «Che c'è, signora?» disse Valentin rabbrividendo al tocco delle dita della signora Danglars, come ad un contatto elettrico. «C'è, mia cara Valentin», disse la baronessa, «che voi non state bene». «Io?» disse la ragazza, passandosi la mano sulla fronte che scottava. «Ma sì, guardatevi in questo specchio. Siete arrossita ed impallidita 3 o 4 volte nello spazio di un minuto. Infatti», gridò Eugénie, «sei molto pallida». «Ah, oh, non ti preoccupare, Eugénie, sono così da qualche giorno». E per quanto fosse dotata di furbizia, la ragazza capì che quella era una buona occasione per uscire. D'altra parte, la signora di Villefort venne in suo soccorso. «Ritiratevi, Valentin», disse. «Voi soffrite realmente e queste signore vorranno perdonarvi. Bevete un bicchiere d'acqua. Vi farà sentire meglio». Valentin abbracciò Eugénie, salutò la signora Danglars, già in piedi per congedarsi, ed uscì. «Quella povera ragazza», disse la signora di Villefort quando Valentin fu uscita, «mi preoccupa veramente e non mi meraviglierei se la colpisse qualche grave malattia». Frattanto Valentin, con una specie di esaltazione a cui non sapeva dare spiegazione, aveva attraversato la camera del fratellastro Edouard senza rispondere a un'impertinenza del ragazzino, e dalla sua camera aveva raggiunto la scaletta. Aveva già disceso tutti gli scalini, meno gli ultimi 3, e sentiva già la voce di Morrel, quando d'un tratto una nube le passò davanti agli occhi. Il piede irrigidito scivolò, le mani non ebbero più la forza di stringere il corrimano e, rasente la ringhiera, rotolò dall'alto degli ultimi 3 gradini. Morrel fece un balzo, aprì la porta e trovò Valentin stesa sul pianerottolo. Rapido come il lampo la prese fra le braccia e la adagiò su una poltrona. Valentin riaprì gli occhi. «Oh, quanto sono maldestra», disse con voce stanca. «Non so più dunque stare in piedi. Dimenticavo che vi sono 3 scalini prima del pianerottolo. Vi siete ferita, Valentin?» gridò Morrel. Valentin guardò intorno a sé e vide il più profondo spavento negli occhi di Noirtier. «Rassicurati, nonno mio», disse sforzandosi di sorridere. Non è niente. Non è niente. È che mi è venuto un capogiro. Ecco tutto. Un altro capogiro, disse Morrel giungendo le mani. Oh, riguardatevi, Valentin, ve ne supplico. Ma no, no, disse Valentin. Vi dico che tutto è passato e che non era niente. Ora, lasciate che vi dia una notizia. Fra 8 giorni Eugénie si sposa. E fra 3 giorni vi sarà una specie di festa, un pranzo di fidanzamento. Noi siamo tutti invitati. Mio padre, la signora di Villefort e io. Almeno a quanto mi è sembrato di capire. E quando sarà il nostro turno? Oh, Valentin, voi che avete tanto potere sul vostro buon nonno, fate sì che vi risponda ben presto. Così? Domandò Valentin. Voi contate su di me per rinfrescare la memoria del buon nonno? Sì, gridò Morrel. Mio Dio, fate presto. Finché voi non sarete mia, Valentin, avrò sempre timore di perdervi. Oh, Maximilien, disse Valentin, ostentate troppa timidezza per essere quell'ufficiale, quel soldato che dicono non abbia mai conosciuto la paura. E scoppiò in una risata stridula e dolorosa. Le braccia le si irrigidirono e si contorsero. La testa si rovesciò sulla poltrona e rimase come paralizzata. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it